Quegli anni, così, imponevano al ricordo di Albertine, che li rendeva tanto dolorosi, non soltanto i colori successivi, le modalità diverse, la cenere delle loro ore o stagioni, dai tardi pomeriggi di giugno alle sere d'inverno, dai chiari di luna sul mare all'alba dei ritorni a casa, dalla neve di Parigi alle foglie morte di Saint-Cloud, ma anche dell'idea particolare che via via mi facevo di Albertine, dell'aspetto fisico, sotto il quale me la rappresentavo in ciascuno di quei momenti, della maggiore o minor frequenza con cui la incontravo in quella certa stagione, che ne risultava come più dispersa o più compatta, delle ansie che la sua attesa aveva potuto causarmi, del fascino che avevo per lei, in quel determinato momento, di speranze concepite, poi perdute. Tutto ciò modificava il carattere della mia tristezza retrospettiva, non diversamente dalle impressioni di luce o di profumi che le erano associate, e completava ciascuno degli anni solari che avevo vissuti e che anche solo con le loro primavere, i loro autunni, i loro inverni, erano già tanto tristi a causa dell'inseparabile ricordo di lei, aggiungendovi una sorta di anno sentimentale in cui le ore non erano definite dalla posizione del sole, ma dall'attesa di un incontro, in cui la lunghezza delle giornate o i progressi della temperatura erano misurati dallo sviluppo delle mie speranze, dal progresso della nostra intimità, dalla trasformazione progressiva del suo viso, dai viaggi che lei aveva fatti, dalla frequenza e dallo stile delle lettere che mi aveva spedite quando non c'era, dalla maggiore o minor premura con cui, tornando, era venuta da me. E in fin dei conti, quei cambiamenti di tempo, quei giorni differenti, se mi restituivano ciascuno una diversa Albertine, non era solo con l'evocazione di momenti simili. Ma si ricordi che sempre, prima ancora che io cominciassi ad amare, ciascuno aveva fatto di me un uomo differente, che aveva desideri diversi perché aveva diverse percezioni. E dopo aver sognato il giorno prima solo tempeste e scogliere, se il giorno indiscreto di primavera insinuava un odore di rose fra le sconnessure del mio sonno socchiuso, si svegliava in partenza per l'Italia. Anche nel mio amore, la mutevolezza della mia atmosfera morale, la modificata pressione delle mie idee, non avevano forse in un certo giorno ridotto la visibilità del mio stesso amore? Non l'avevano forse in un altro infinitamente dilatata, in un altro abbellita fino al sorriso, in un altro ancora contratta sino alla tempesta? Non si è che grazie a ciò che si possiede. Non si possiede che quel che ci è realmente presente. E quanti dei nostri ricordi, dei nostri umori, dei nostri pensieri se ne vanno in viaggio lontano da noi, dove li perdiamo di vista. Non riusciamo più allora a metterli in conto a quel totale che è il nostro essere. Ma essi hanno, per rientrare in noi, sentieri segreti. E certe sere che mi ero addormentato senza più rimpiangere quasi Albertine, non si può rimpiangere ciò che non si ricorda, trovavo al risveglio come una flotta di ricordi venuti ad incrociare dentro di me, nella piena chiarezza della mia coscienza, dove li distinguevo a meraviglia. Piangevo allora quel che vedevo così bene e che il giorno prima, per me, non era che il niente. Il nome di Albertine, la sua morte, avevano cambiato senso. I suoi tradimenti avevano ripreso di colpo tutta la loro importanza. Come era potuta apparirmi morta se adesso, per pensare a lei, avevo a disposizione le stesse immagini che rivedevo ora l'una, ora l'altra, quando era viva. Svelta e china sulla ruota mitologica della sua bicicletta, stretta ai giorni di pioggia nella tunica guerriera dell'impermeabile che faceva risaltare i suoi seni, la testa inturbantata e fitta di serpenti seminava il terrore nelle strade di Balbec. Le sere che ci eravamo portati dello champagne nei boschi di Chantepie, provocante e mutata la voce, aveva in viso quella fiamma livida, arrossata solo ai pomelli che, distinguendo la madre nel buio della vettura, avvicinavo al chiaro di luna per vederla meglio e che adesso cercavo, invano, di ricordare, di rivedere in un buio che non sarebbe mai finito. Piccola statuetta nella passeggiata verso l'isola, calma figura massiccia di grana grossa davanti alla pianola. Era così, volta a volta, piovosa e rapida, provocante e diafana, immobile e sorridente. Angelo della musica. Ciascuna così era legata ad un momento, alla cui data mi trovavo nuovamente incasellato quando rivedevo quella certa Albertine. E questi momenti del passato non sono immobili. Serbano, nella nostra memoria, il movimento che li trascinava verso l'avvenire, verso un avvenire divenuto a sua volta il passato, trascinandovi anche noi. Mai avevo accarezzato l'Albertine impermeabile dei giorni di pioggia. Volevo chiederle di togliersi quell'armatura, così avrei conosciuto assieme a lei l'amore dei campi, la fraternità del viaggio, ma non era più possibile, era morta. Allo stesso modo, per paura di depravarla, avevo sempre fatto finta di non capire quelle sere in cui sembrava offrirmi piaceri che diversamente forse non avrebbe chiesto ad altri e che eccitavano adesso in me un desiderio furioso. Non ne avrei mai provate di simili con un'altra. Quella che me li desse, potevo girare il mondo intero senza trovarla, dato che Albertina era morta. Sembrava che io dovessi scegliere tra due fatti, decidere quale fosse il vero, a tal punto, quello della morte di Albertine, venuto per me da una realtà che non avevo conosciuta, la sua vita in Touraine, era in contraddizione con tutti i miei pensieri relativi a lei, con i miei desideri e rimpianti, con il mio intenerimento, il mio furore, la mia gelosia. Tanta ricchezza di ricordi tratti dal repertorio della sua vita, tanta profusione di sentimenti evocanti, implicanti la sua vita, sembravano rendere incredibile che Albertine fosse morta. Tanta profusione di sentimenti, perché nel conservare la mia tenerezza, la mia memoria le lasciava intera la sua varietà. Non soltanto Albertine era tutta una successione di momenti, io stesso lo ero. Il mio amore per lei non era semplice. Alla curiosità dell'ignoto s'era aggiunto un desiderio sensuale. A un sentimento di dolcezza quasi familiare, ora l'indifferenza, ora una furiosa gelosia. Non ero un solo uomo, ma la sfilata, un'ora dopo l'altra, d'un composito esercito in cui c'erano, a seconda dei momenti, degli appassionati, degli indifferenti, dei gelosi nessuno dei quali era geloso della stessa donna. E certo era da lì che sarebbe venuta un giorno la guarigione che non mi auguravo. In una folla, quei singoli elementi possono essere sostituiti uno alla volta senza che nessuno se ne accorga, con altri che altri ancora eliminano o rafforzano, sicché alla fine si è compiuto un cambiamento che sarebbe inconcepibile se non si fosse che uno. La complessità del mio amore, della mia persona, moltiplicava, diversificava le mie sofferenze. E tuttavia, era sempre possibile raggrupparle in una delle due categorie della cui alternanza era vissuto tutto il mio amore per Albertine, preda volta a volta della fiducia e del sospetto geloso. Se faticavo a pensare che Albertine, così viva in me, curvo com'ero sotto il doppio peso del presente e del passato, era morta, poteva anche essere contraddittorio che il sospetto di colpe di cui Albertine, ormai spogliata della carne che ne aveva goduto, dell'anima che ne aveva provato desiderio, non era più né capace né responsabile, suscitasse ancora in me una simile sofferenza, che avrei soltanto benedetta se avessi potuto scorgervi il pegno della realtà morale di una persona materialmente inesistente, anziché il riflesso, destinato a spegnersi a sua volta, di impressioni che essa in altri tempi aveva fatto nascere in me. Una donna che non poteva più provare piaceri con altri non avrebbe più dovuto eccitare la mia gelosia, se solo la mia tenerezza avesse potuto aggiornarsi. Ma proprio questa era la cosa impossibile, giacché la gelosia non poteva trovare il proprio oggetto, Albertine, se non in ricordi in cui lei era viva. Dal momento che mi bastava pensare a lei per resuscitarla, i suoi tradimenti non potevano mai essere quelli d'una morta. L'istante in cui li aveva commessi diventava l'istante attuale, e non solo per Albertine, ma per quel me stesso che, subitamente evocato, la contemplava. In tal modo, nessun anacronismo poteva mai separare la coppia indissolubile in cui a ogni nuova colpevole s'appaiava subito un geloso miserando e sempre contemporaneo. L'avevo tenuta negli ultimi mesi rinchiusa in casa mia. Ma adesso, nella mia immaginazione, Albertine era libera. Faceva un cattivo uso di tale libertà. Si prostituiva a questa e a quella. Prima pensavo di continuo all'avvenire incerto che si spiegava davanti a noi, cercavo di interpretarlo, e adesso ciò che mi stava davanti come un doppio dell'avvenire, preoccupante quanto un avvenire perché altrettanto incerto, altrettanto difficile da decifrare, altrettanto misterioso, ancora più crudele perché non avevo come per il futuro la possibilità o l'illusione di influenzarlo, e anche perché si sarebbe prolungato quanto la mia stessa vita senza che ci fosse più la mia compagna a calmare le sofferenze che me ne derivavano, non era più l'avvenire di Albertine, era il suo passato. Il suo passato. È detto male. Perché la gelosia non ha né passato né futuro, e quel che immagina è sempre un presente. I cambiamenti dell'atmosfera ne provocano altri nell'uomo interiore, risvegliano io obliati, contrastano il sopore dell'abitudine, ridanno forza a certi ricordi, a certe sofferenze. Quanto più per me, se il nuovo tempo sopraggiunto mi faceva ricordare, per esempio, quello con cui a Balbec, sotto la minaccia della pioggia, Albertine era andata a fare, Dio sa perché, grandi passeggiate tutta stretta nel suo impermeabile aderente. Se fosse stata viva oggi, con un tempo simile, probabilmente sarebbe andata a fare un'analoga escursione in Touraine. Visto che non poteva più farlo, non avrei dovuto soffrire di questa idea, ma come succede ai mutilati. Il minimo cambiamento di tempo rinnovava i miei dolori all'arto che non esisteva più. A cristallizzarsi tutto a un tratto era un ricordo che non avevo più rivisto da molto tempo, perché era rimasto dissolto nella distesa fluida e invisibile della mia memoria. Parecchi anni prima, mentre si parlava del suo accappatoio da doccia, Albertine era arrossita. Io a quel tempo non ero geloso, ma più tardi avevo desiderato chiederle se era in grado di ricordare quella conversazione e dirmi perché era arrossita. La cosa mi aveva tanto più preoccupato in quanto mi avevano detto che le due fanciulle amiche di Lea frequentavano lo stabilimento balneare dell'albergo e, si diceva, non soltanto per fare la doccia. Ma temendo di far arrabbiare Albertine o aspettando un periodo più propizio, avevo sempre rimandato quella domanda, poi non ci avevo più pensato. E di colpo, un po' di tempo dopo la morte di Albertine, mi apparve quel ricordo, con quel carattere al tempo stesso irritante e solenne degli enigmi lasciati per sempre insoluti dalla morte del solo essere che avrebbe potuto chiarirli. Non avrei almeno potuto cercare di sapere se Albertine avesse mai fatto qualcosa di male o semplicemente fosse parsa sospetta in quello stabilimento di docce? Forse mandando qualcuno a Balbec ci sarei riuscito. Viva lei, è probabile che non avrei potuto scoprire niente, ma le lingue si sciolgono stranamente e facilmente raccontano una colpa, quando non si ha più da temere il rancore della colpevole. Poiché la costituzione dell'immaginazione, rimasta rudimentale, semplicistica, non essendo passata attraverso le innumerevoli trasformazioni che intervengono sui modelli primitivi e malapena riconoscibili delle invenzioni umane, si tratti di barometro, dirigibile, telefono, eccetera, nei loro perfezionamenti successivi, ci consente di vedere soltanto pochissime cose alla volta, quel ricordo dello stabilimento di docce occupava tutto il campo della mia visione interiore. A volte, lungo le oscure strade del sonno, mi imbattevo in uno di quei brutti sogni che non sono particolarmente gravi per una prima ragione, e cioè che la tristezza di cui sono origine non si prolunga dopo il risveglio per molto più di un'ora, non diversamente dai malesseri dovuti a un modo artificiale d'addormentarsi, ma anche per un'altra ragione, e cioè che li si incontra molto di rado, ogni 2 o 3 anni al massimo. E ancora resta incerto se li abbiamo già incontrati o se non abbiano piuttosto quel carattere di cosa non vista per la prima volta che viene proiettato su di essi da un'illusione, da una suddivisione, perché parlare di sdoppiamento non sarebbe sufficiente.